La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, bentornati se avete anche ascoltato me Alessandro Milan stamattina dalle 8 e un quarto alle 9 su Attenti a noi due, e altrimenti buona giornata e grazie di essere in ascolto o di scaricarci in podcast. Sono le 16:32, primi 15 secondi, siamo in diretta qui da Milano e vado all'argomento del giorno per consentirvi di intervenire. Spero che siate numerosi oggi, perché anche se non l'abbiamo fatto ieri, gli sviluppi che sono in corso mi consigliano, anzi mi obbligano a tornare sull'argomento del canone RAI in bolletta, a cui il governo sta pensando. Anzi, oggi la novità è che rispetto a ieri, dopo l'annuncio venuto domenica dal Presidente del Consiglio, ospite di Lucia Annunziata, la trasmissione in mezz'ora, abbiamo appreso tutta una serie di cose aggiuntive, perché siamo in presenza, mentre voi dovete telefonarci all'800 24 00 24 o dire al 349 238 6666 le vostre opinioni. È una buona idea? Siete disposti senza problemi a pagarlo? Credete che sia problematica ingiusta? Credete che sia, secondo me lo è, incostituzionale e così via? Quindi dateci la vostra opinione e intervenite, perché questa è una trasmissione concepita dopo la testimonianza che vedremo all'inizio, per sentire direttamente la vostra opinione. Ma intanto che cosa abbiamo appreso oggi? Abbiamo appreso oggi che intanto, come spesso capita con questo governo, anche con altri, ma con questo è quasi la regola, il Presidente del Consiglio ha annunciato questa misura domenica, se non che l'ha annunciata prima che tecnicamente il governo fosse venuto a capo della sua praticabilità, perché abbiamo appreso che c'erano, diciamo, due ministeri interessati che avevano commissioni di esperti che si stavano confrontando, perché non è affatto chiaro come possa funzionare questa faccenda, e nel frattempo la notizia del Presidente del Consiglio li ha gettati nel terrore, tanto che ieri una riunione fiume sull'argomento si è conclusa ancora con un nulla di fatto, senza aver potuto superare i fondamentali problemi che sono di fronte all'attuazione di questa misura e che adesso riepilogherò. Dopodiché, che cosa si aggiunge oggi? Che l'Enel, non tutti hanno contratto con l'Enel, molti di voi ce l'hanno con le municipalizzate locali ovviamente, però l'Enel, che è la grande azienda pubblica controllata ancora dallo Stato, elettrica, ma che è quotata in borsa e quindi deve rendere conto a grandi fondi privati di investimento che nel capitale e a migliaia di piccole soci, essendo quotata in borsa, anche se ancora controllata dallo Stato, l'Enel oggi ha, con il suo presidente Patrizia Greco, dovuto dire con grande durezza al governo che questa roba del canone RAI in bolletta non si può fare, perché ci sono fondamentali problemi di tipo giuridico e tecnico. Quali sono questi fondamentali problemi? Ricordiamone almeno alcuno. Innanzitutto, annegare una tassa, la tassa sul possesso degli apparecchi radioriceventi, in una tariffa come quella elettrica che pagate in ragione dei consumi, è del tutto improprio e anche anticostituzionale, secondo me. Perché la natura del servizio, cioè la corrente elettrica, è molto più indispensabile, quello che pagate a tariffa a seconda di quanto ne usate, rispetto a una tassa sul possesso di apparecchi radioriceventi. Primo. Secondo, perché le società che gestiscono il servizio elettrico diventano sostituti d'imposta, loro responsabili di fronte allo Stato se non raccolgono tutto quello che lo Stato si aspetta. E a quel punto, come ovvio, bisognerà tirare fuori bei soldi per le società che gestiscono il servizio. Terzo, perché chi eventualmente facesse impugnative, giudicando incostituzionale, ci sono molte associazioni dei consumatori che sono già pronte a farlo, e quindi se alcuni di voi non pagassero in bolletta dichiarandolo l'importo di un tassa diversa dalla tariffa, sarebbero a quel punto le società che gestiscono il servizio costrette a sospendervi la luce elettrica e quindi non potreste più campare. Quarto, i proprietari di seconda e terza case pagherebbero ovviamente più canoni. Non può sapere l'Enel ovviamente quale allaccio di rete elettrica contrattuale è un primo, secondo e terzo, eccetera eccetera. Quinto, si porrebbe il problema per gli anziani oggi esentati a pagarlo, perché non è che l'Enel ha l'anagrafe di ciascuno. Sesto, si porrebbe il problema di quelli che hanno esercizio pubblico, che pagherebbero un canone ancora più elevato di quello già molto elevato che pagano. Ecco, quindi i problemi sono evidentemente macroscopici, il governo ha annunciato la misura senza avere ancora l'idea di come sono risolvibili e se sono risolvibili. Allora, la mia idea è che bisogna opporre una resistenza argomentandola così forte tale da indurre il governo a non procedere a questo inguacchio giuridico e incostituzionale. Oltretutto aggiungo che sapere che il governo pensa con questo di passare da 13 milioni, sono poco più di 13 milioni i soggetti attualmente che pagano il canone RAI, 13 milioni di famiglie ed esercizi pubblici, a 30 milioni con questo giochetto di metterlo per tutti in bolletta, cioè più che raddoppiando, arrivando a 3 miliardi di proventi per la RAI, beh, fa riflettere il fatto che noi apprendiamo questa misura mentre alla RAI apprendiamo i dirigenti tornano a pagarsi oltre il tetto di 240.000 euro, perché è questo quello che hanno fatto quando intervenne il tetto sotto questo governo un anno fa, misero da parte i soldi in bilancio, mettendoli in bilancio hanno emesso un bond che è la maniera per aggirare il vincolo del tetto di 240.000 euro, e sono tornati immediatamente a pagarsi più di 240.000 euro. Ecco, una cosa che fa riflettere, per così dire. Allora, di fronte a tutti questi sviluppi, siccome uno degli argomenti del fronte canone RAI in bolletta è così combattiamo l'evasione, giustissimo per carità, e perché non vi dimenticate che in Gran Bretagna il canone della BBC è molto più alto, io non solo ho ricordato in questi giorni che alla BBC le reti che hanno la license fee, cioè quella di servizio pubblico, non hanno la pubblicità, e allora posso capire, e posso capire anche perché in Gran Bretagna alla testa della BBC che fa servizio pubblico c'è un trust di 13 persone che non sono nominati dai partiti e dal governo, o meglio c'è un decreto di nomina del governo ma sono tutti indipendenti, ex direttori di musei, ex banchieri, ex manager, rettori di università, cioè non sono scelti perché per essere laburisti o conservatori, a differenza della RAI attuale che con la riforma diventerà con un capo azienda, sarà sempre capo dell'orto che adesso è direttore generale, ma diventerà amministratore delegato scelto dal governo e con pieni poteri. Come vedete c'è una certa differenza su cos'è un servizio pubblico. Oppure ci sono altri paesi, lo ricordo, che hanno fatto la scelta di tenere il servizio pubblico con pubblicità, la Spagna, la Polonia, l'Olanda, eccetera, eccetera, Turchia, persino la Turchia, e che però hanno abolito il canone tenendo un servizio pubblico con la pubblicità, perché delle due l'una, o sei una televisione commerciale o sei di servizio pubblico, se sei un ibrido non puoi alzarti il canone col canone in bolletta, da una parte facendo finta di diminuirtelo e dall'altra raccogliere anche pubblicità. Però di fronte a tutto questo mi si può dire non creare troppi problemi, in Gran Bretagna è comunque più elevato, lì lo pagano. Allora abbiamo un nostro ascoltatore che vive in Inghilterra e che ci ha segnalato come funziona davvero lì, e infatti è collegato, Andrea si chiama, sta a Londra, io lo ringrazio della sua segnalazione, buon pomeriggio di essere con noi innanzitutto. Buongiorno Giannino, buongiorno agli ascoltatori. Allora, come funziona? Davvero per il canone più elevato in Gran Bretagna della BBC pubblica, che ripeto, nei canali pubblici non ha la pubblicità, tutti lo pagano, è più elevato e tutti sono contenti, oppure è possibile fare una scelta? No, è assolutamente possibile fare una scelta. Io infatti vivo a Londra da 4 anni e non pago legalmente il canone. Occorre fare una premessa: il pagamento del canone non è dovuto per il mero possesso di un apparecchio atto alla riproduzione. Sì, non è come la tassa di apparecchi, ecco, di ricezione come in Italia, ed è diventata così in Italia per obbligare la gente a pagarlo, ecco, però insomma lì è il canone proprio per la BBC. Esatto, quindi io come cittadino residente titolare di un contratto di affitto ogni anno ricevo una cartolina dall'ente proposto che mi ricorda o di pagare il canone oppure di effettuare un opt-out, un'autodichiarazione online con cui dichiaro che io non guardo TV live. Aspetti, ci metto 5 minuti. Basta, cioè la BBC le chiede: hai un'alternativa, paghi il canone se ci guardi, oppure se dichiari di non guardare, di non essere interessato alla rete di servizio pubblico della BBC, non lo paghi. È così, ho capito bene? Esattamente, praticamente il canone non copre soltanto BBC ma riguarda tutti i programmi televisivi trasmessi live in diretta, mentre non riguarda le trasmissioni on demand. Per cui ad esempio come utente Prime Amazon io guardo i loro servizi di streaming ed è legale non pagare il canone perché non rientra nella definizione di TV live. Quindi semplicemente io ogni anno certifico sul sito che non guardo la TV in modo tradizionale, ho televisori e altri apparecchi con cui guardare volendo, se volessi la televisione non lo faccio, quindi non pago il canone. Allora, scusate, cari ascoltatori, vi rendete conto di che differenza c'è rispetto a quello che vi raccontano di come funziona davvero in Gran Bretagna, indicata come il paese in cui il canone è più elevato e non ci sono gli evasori, eccetera. Il fondamento è che lì il servizio pubblico chiede al consumatore cliente: ma ci guardi o non ci guardi? Se non ci guardi, ce lo dici e tu non ci devi niente. È chiaro questo fatto? Cioè, mi sembra una differenza non da poco. La mia opinione, tanto per essere chiari, chiunque di voi è in ascolto, se è abbonato a una TV a pagamento, sa che in Italia esistono televisori, i device per TV a pagamento. Voi pensate che non sia possibile fare la stessa cosa per la ricezione dei canali Rai di servizio pubblico? Beh, come è ovvio, certo che è possibile. Perché allora non facciamo una cosa simile? Chi vuole il servizio pubblico si prende la sua smart card e paga. Perché bisogna accettare l'idea che comunque bisogna pagare in bolletta elettrica, a prescindere, quando, ripeto, nell'esempio la Gran Bretagna, avete appena sentito, la BBC chiede: tu sei nostro cliente, non sei interessato, non paghi, ce lo dichiari ed è così. E poi un'altra cosa, Andrea, come funziona lì il regime dei controlli? È davvero, perché molti dicono, devo dire la verità, anche ieri mattina da noi Davide Serra di Agio mi ha detto: no, qui chi non lo paga va in galera, ma è così? Assolutamente no, nel senso che in caso di controlli, se uno risulta non pagare il canone mentre invece guarda la televisione, usufruisce dei servizi della BBC e degli altri canali disponibili sul digitale terrestre, satellite, live, incorre una sanzione di 1.000 sterline. La sanzione in 4 anni non ho mai avuto alcun controllo, e il chi effettua i controlli, non essendo ufficiale, insomma, posso semplicemente dirgli: no, tu in casa mia non entri. Non entri, perché il domicilio, ecco, è inviolabile senza mandato. Altri paesi, altre civiltà, come dire. Allora, io ringrazio Andrea da Londra per questa testimonianza, che però dal mio punto di vista è una di quelle testimonianze che pesano, perché un conto è ripetere i luoghi comuni, altro conto è raccontare davvero come fondamentalmente diverso è il servizio pubblico nei suoi rapporti con i clienti, gli utenti, i consumatori, i cittadini, i contribuenti. Non solo garanzie di indipendenza politica vere e non come la governance Rai, in cui i partiti che a pro tempore al governo o controllano oppure fanno, come si è letto la settimana scorsa, i processi pubblici ai conduttori delle trasmissioni dicendo: non siete allineati al governo, ai tempi, alle percentuali, eccetera eccetera. Secondo, si chiede alla gente: siete interessati, non siete interessati? Ecco, e a quel punto, siccome conta il mercato, chi ti dice di essere davvero interessato, lo stimolo è anche a fare trasmissioni migliori di servizio pubblico, perché è evidente che se vuoi aumentare la percentuale dei residenti in Gran Bretagna che dicono sì, ti guardo e ti pago, vuol dire che è gente soddisfatta. Mentre da noi è obbligatorio, a prescindere da quello che pensiamo di quello che ci dà la RAI. Ecco, questa è una differenza di quelle, secondo me, che mi piace proporvi, perché non è vero che il mondo va avanti così come ci dicono e ci ripetono, dicendo che la colpa è vostra perché siete evasori, mentre le colpe loro, che tornano a pagarsi oltre i 240.000 euro e informano carriere, scelte, direttori, vice direttori, linee editoriali ai partiti che governano pro tempore, tutto questo sembra che non ci debba occupare, dobbiamo solo pagare. Un minuto di pausa e poi iniziamo con le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:47 primi 20 secondi, canone Rai in bolletta. Vi ho detto che cosa ne pensa l'Ener, controllata dallo Stato, dice: non si può fare, noi non lo possiamo fare. Problemi anche nelle delegazioni ministeriali che non hanno risolto il problema, ma l'annuncio è stato fatto. Abbiamo sentito un ascoltatore da Londra che ci ha spiegato come funziona davvero a Londra, cioè la BBC ti chiede: ma tu usi i nostri servizi? Sì, no, altrimenti non si paga. Chiaro? Cioè, si fa scegliere al consumatore. Qui in Italia non possiamo scegliere niente. Sentiamo un po', prima delle telefonate, alcuni degli sms. Per esempio, Ugo da Brescia ci scrive: io ho chiesto il suggello della TV, nessuno mi ha mai messo i sigilli e devo continuare a pagare anche se ho manifestato la mia volontà? Secondo me Ugo da Brescia ha ragione, per esempio. Ha ragione, non ha torto. Ha torto lo Stato che gli chiede di pagare comunque. Altri, come Bernie, ci dicono: ma visto che è tassa di possesso, non è che continuano a chiamarla Bernie, è una tassa di possesso di apparecchi di ricezione, e lui continua dicendo: ma allora troviamo un sistema per pagare, se proprio si deve, in proporzione al numero di televisore che uno possiede al tipo. Io non sono d'accordo, cioè, mi pare che tu accetti la logica che sia una tassa e non un canone, e a questo punto penalizziamo chi ha più televisori in casa. Ma per quale ragione, se serve a tenere in piedi il servizio pubblico, dovrebbe avere rilievo il numero di apparecchi? Anche perché significa che se uno per caso ha ufficio del lavoro a casa, quindi con più computer, paga per questo? Perché funzionerebbe così, è la cosa che propone Bernie. A me sembra un po' sbagliata, magari non ti ho convinto. Altri come Ulisse dicono: sì, però se il sistema appena illustrato della BBC fosse introdotto in Italia, tutti risponderebbero no e nessuno pagherebbe il canone. Attenzione, Ulisse, se fosse così la RAI sarebbe costretta a cambiare dopo il primo anno in cui gli cadono gli introiti e a proporre servizi, reti diverse. E attenzione, Ulisse, non sottovalutare questa faccenda. Non è che bisogna accettare l'idea che noi dobbiamo pagare a prescindere. Quindi non mi permetto di dire, non sono molto d'accordo con te. Sentiamo le telefonate, cominciamo con Roberto da Bologna. Prego Roberto. Sì, salve, buon pomeriggio. La mia proposta è una via mediana. Io abbasserei il canone a 50 euro, lo farei riscuotere dai comuni, però obbligherei la RAI a vendere due reti, in modo che nel giro di 5 anni potremmo avere magari un progressivo azzeramento di questo canone e una rete sola. Terrei l'archivio storico, queste cose qui importanti. No, beh, certo, quello è un pezzo di storia del paese, del costume, sì, italiano. Sì, assolutamente, dello... assolutamente. Non però, è un caso ecco... che te sia uno dei programmi più visti della RAI. Quindi... non è allora. Quello, però dico veramente, avere tre reti mi sembra ridondante ed eccessivo in questo momento. Lei sa quindi... che naturalmente le reti, quelle sono le vecchie reti nazionali, le reti RAI sono molto di più, RAI 4, RAI 5, le storie, sì, eccetera. Sì, vero. Quindi arriviamo a 14. Ma detto tutto questo, Roberto pone un problema. Intervenite sul canone, ma cambiate la struttura dell'offerta del servizio pubblico. Ha torto Roberto? Secondo me coglie un punto, mentre qua non cambiano niente, mettono solo il canone in bolletta, o meglio, mettono solo un amministratore delegato nominato dal governo che risponde al governo. Alessandro da Milano, come la pensi? Buonasera Giannino e complimenti, ma io la penso così. Dunque, innanzitutto io mi trovo in serie difficoltà perché io non ho mai avuto l'apparecchio, quindi non so come faccio a dimostrare che non ce l'ho. Se non c'è, non c'è, c'è poco da fare. Ma lo sa che c'è l'inversione dell'onere della prova, come nel processo in cui sarà le streghe, la strega che deve provare di non essere strega, mica chi l'accusa che lei è una strega. Sì, siamo veramente all'assurdo e questa è una delusione profondissima che mi dà il rottamatore. E l'altra cosa, se è un servizio pubblico lo possono fare anche altre reti, e in questa logica, ma perché non pensano di mettere un decoder per i programmi RAI? Oh, bravo, e chi lo vuole paga la sua smart card. Guardi, tecnologicamente è fattibilissimo, come è evidente a chiunque abbia un abbonamento a una televisione, è fattibilissimo, e che non vogliono farlo. Roberto dalla provincia di Vercelli, prego. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque, io abito in montagna, qui non arriva il digitale terrestre, quindi io la RAI non la vedo, ho l'abbonamento Sky, se io non pago mi tolgono il segnale, banalmente. Io non vedo che cosa ci sia di fantascientifico a fare una sorta di... Un domani Roberto, sì. Non solo le tolgono il segnale, lei non vede Sky, le tolgono la corrente elettrica, questo è no, tutto. No, intendevo dire che se si adottasse, come dice lei, la politica di adottare una smart card per la RAI, sì, è banale, come con Sky. Se io non pago Sky, bravo, non mi arriva il segnale. Bravo. Se non pago la smart card RAI, non mi arriva il segnale. Esatto. Banale. Poi ripeto, qui noi in montagna, anche volendo, il segnale RAI non arriva, non c'è niente da fare. Quindi, come si suol dire, cornuti mazziati. Nel senso che dovremmo pagare un canone per un canale che non possiamo vedere. Per un prodotto virtuale, ma è servizio pubblico, quindi lei non vorrà mica sottrarsi, perché gli apparecchi di ricezione ce l'ha, e quindi a prescindere che la RAI lei non può vedere su quegli apparecchi, deve pagare comunque. Anzi, le leviamo anche la corrente. Alberto da Verona, prego Alberto. Sì, buon pomeriggio Oscar Giannino. Allora, la situazione è questa: io ho Sky in casa, ce l'ho perché ho i bambini piccoli e vorrei che loro guardino la televisione in inglese. me non interessa guardare la RAI, perché secondo me è una televisione per i vecchi. Io non la voglio. Se io mi dicono di pagare il canone, tolgo Sky, così Sky capisci che perché io ho torto Sky, punto e basta. Ecco, questa è la mia opinione. Ecco, e io sarei per un sistema che desse la possibilità a chi la pensa come Alberto di poterla esercitare. Questo significa essere liberi, secondo me. Marco da Arezzo. Sì, permesso che il pizzeraio magico racconta che si può risparmiare se paghiamo tutti, o mette di dire che il governo ci guadagna di più da questa operazione. Perché, tutti. Aspetti un secondo, loro propongono di passare da 130 erotti a 100 euro. Con il canone in bolletta significa che pagano 30 milioni, perché sono 30 milioni gli allacci elettrici, quindi loro più che raddoppierebbero gli introiti della RAI. Quindi questa storia che ci rimettono risorse non è vera, perché basta, ha fatto i conti Repubblica oggi, se non vi fidate dei miei l'ho trovata. Quindi, ma detto, fatta questa premessa, Marco, come la pensi? No, la cosa carina è che gli italiani comunque sono contenti, perché almeno pagano tutti, perché l'italiano sbaglia la domanda e ovviamente poi tiene risposte che si merita in funzione delle domande sbagliate. Questo è quanto. Poi non siamo inglesi, se facessimo il sistema inglese in Italia la pagherebbe 3 persone. Io questo non lo so. Io penso che noi non siamo inglesi, perché gli inglesi nel 1649 il parlamento inglese dell'epoca decise di tagliare la testa a un re. Perché? Perché quel re diceva: io vi posso mettere le tasse che voglio. Era Carlo I Stuart, e loro dissero no, e tu è meglio che cambi idea. Lui non cambiò idea, le sfidò e disse: va bene, te la facciamo cambiare idea, cioè ti tagliamo la testa. Da allora il potere assoluto fiscale in Gran Bretagna non esiste più. Ecco, forse conta anche un po' questo, non sono per tagliare le teste, ma però voglio dire, nella storia queste cose contano, e come se contano. Giulio da Latina. Buonasera Oscar. Buonasera. Certo, venire a parlare dopo le teste che si tagliano mi preoccupa un po'. No, però... io non le voglio tagliare, guardi. Certo, no, io sono imprenditore, quindi l'ascolto molto, perché spesso trovo un po' di sollievo nelle sue parole, no? Rispetto. Grazie. Secondo me va cambiato il rapporto tra servizi erogato e utenti. Ecco, cioè, certo. Il canone è uno di questi aspetti. Ma certo, deve essere proporzionato a chi, a quanti si riconoscono in una qualità del servizio, e se sono meno vuol dire che la qualità crescerà. Ma io sono d'accordissimo con lei, Giulio. Comunque, continuate con Radio 24, appuntamento a Questione di Oscar domani alle 16:30, naturalmente domani anche alle 8:45 con me, Alino Milan. Attenti a noi due.